se tu fossi una brava ragazza, alla sera invece di uscire andresti a dormire. Al mattino invece di dormire andresti a messa. Se tu fossi una brava ragazza, quando incontri per strada una di quelle, guarderesti altrove, invece di stare ad osservare come si muove. Non mi daresti baci per la strada, davanti a tutti, davanti a tutti. Non mi diresti che la notte sogni di avermi accanto lì nel tuo letto. Se tu fossi una brava ragazza, la ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente ora invece di volerti bene sarei altrove, perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata. Davanti a tutti, non mi diresti che la notte sogni di avermi accanto lì nel tuo letto. Se tu fossi una brava ragazza, la ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente ora invece di volerti bene sarei altrove, perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata.